Canto ventitreesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventitreesimo. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io così, come far suole, chi dietro l'uccellin sua vita perde, lo più che padre mi dicea: figliuole, vienne oramai, che il tempo che n'è imposto più utilmente compartir si vuole. Io volsi il viso e il passo non men tosto appresso ai savi che parlavan sie, che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco piangere e cantar s'udie: labia mea domine, per modo tal che diletto e doglia parturie. O dolce padre, che è quel che io odo? Comincia io, ed egli: ombre che vanno forse di lor dover solvendo il nodo. Siccome i peregrin pensosi fanno, giugnendo per camin gente non nota, che si volgono ad essa e non ristanno, così di retro a noi, piuttosto mota venendo e trapassando, ci ammirava d'anime turba tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia, e tanto scema che dall'ossa la pelle s'informava. Non credo che così a buccia strema risiton si fosse fatto secco per digiunar, quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso pensando: ecco la gente che perdé Gerusalemme quando Maria nel figlio die di becco. Parean l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo ben avria quivi conosciuto lemme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse generando brama e quel d'un'acqua non sapendo come? Già era in ammirar che si gli affama per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama. Ed ecco, del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso, poi gridò forte: qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cambiata labbia e ravvisai la faccia di forese. De, non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora, pregava la pelle, né ha difetto di carne ch'io abbia. Ma dimmi il ver di te, e chi son quelle due anime che là ti fanno scorta? Non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, mi dà di pianger mo non minor doglia, risposio lui, veggendola sì torta. Però mi di, per Dio, che sì vi sfoglia, non mi far dir mentre io mi maraviglio, che mal può dir chi è pien d'altra voglia. Ed egli a me: dell'eterno consiglio cade virtù nell'acqua e nella pianta, rimasa addietro, ond'io sì mi sottiglio. Tutta sta gente che piangendo canta, per seguitar la gola oltre misura, infame e in sete qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura l'odor ch'esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per la verdura. E non pur una volta questo spazio girando si rinfresca nostra pena. Io dico pena e dovria dir sollazzo. che quella voglia l'albero cimena che menò Cristo lieto a dire e lì quando mi liberò con la sua vena. Ed io a lui forese da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita 5 anni non son volti infine a qui, se prima fu la possa in te finita di peccar più che sorvenisse l'ora del buon dolor che a Dio ne rimarita, come sei tu quassù venuto? Ancora io ti credea trovar laggiù di sotto, dove tempo per tempo si ristora. Ed egli a me, sì tosto m'ha condotto a ver lo dolce assenzio de martiri, l'anella mia col suo pianger dirotto, con suoi prieghi devoti e con sospiri, tolto m'ha della costa ove s'aspetta, e liberato m'ha dagli altri giri. Tant'è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai, quanto in bene operare più soletta, che la barbagia di Sardigna assai nelle femmine sue più pudica che la barbagia dov'io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica, tempo futuro m'è già nel cospetto, cui non sarà quest'ora molto antica, nel qual sarà in Pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto. Quai barbare fur mai, quai saracine, cui bisognasse per farle ir coverte, o spiritali o altre discipline? Ma se le svergognate fosser certe di ciò che il ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte, che se l'antiveder qui non m'inganna, prima fien triste che le guance in peli colui che mo si consola con Nanna. De, frate, or fa che più non mi ti celi, vedi che non pur io, ma questa gente, tutta rimira là dove il sol veli, perch'io a lui. Se ti riduce a mente qual fosti meco e quale io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, l'altrier, quando tonda vi si mostrò la suora di colui, e il sol mostrai. Costui per la profonda notte menato m'ha de veri morti, con questa vera carne che il seconda. Indi m'han tratto su li suoi conforti salendo e rigirando la montagna che drizza a voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna ch'io sarò là dove sarà Beatrice. Quivi convien che senza lui rimagna. Virgilio è questi che così mi dice e additailo, e quest'altro è quell'ombra per cui scosse di ansia ogni pendice lo vostro regno che da sé la sgombra. Fine del canto 23.